Wszyscy poza. Lo giuro, un giorno sarò qualcuno, anche se qualcuno lo sono per la gente che mi sente, che si stende di fianco a me. Togli le tende, ma che sole che c'è. E ogni volta che il quaderno lo apro, sono il primo, tanto che la biro scrive sempre in testa come la corona di un re. Mentre incapaci arrivano sopra il podio, è un odio, non seguo loro, ma camminerò da solo. Sparo sulla nazione ogni anno, l'inflazione sulla delusione che ci dà l'affanno. Un panno sudato e non 7 camicie, ma 7 valigie sudate per sentirmi felice. E notti sul PC suonando le note di un beat, ricordo nelle mani il mio primo mic e quanti CD regalati, per lo più a sconosciuti, pochi venduti, testi crudi come sushi. Alto è ciò che punto e segnerò ogni punto, pur in capo al mondo con un appunto. E son pronto, se sto cielo è profondo io lo sfondo, pretendo il primo piano e lascerò lo sfondo. Arriverò più in alto con il rap, con i pugni, con la red. Arriverò più in alto con le parole, con gli schemi, con il fed. Arriverò più in alto, arriverò più in alto con ciò che c'è. Arriverò più in alto, più in alto, più in alto. Per ora giro in macchina con lo stereo a palla, il rap che scapita tra due casse, il mio habitat. Il posto lo pretendi, ma poi quando lo perdi, i vincitori sono come stelle ma cadenti. Niente merito, ma sono popolare, figli di papà che dicono di vivere in case popolari. Io punto in alto e non sono un personaggio, ma una persona che nei testi mette un messaggio. E viaggio ancora troppo in basso, passo a passo passerò una macchina, ma a suonare i clacson come una navicella nello spazio. Voglio arrivare per farmi capire, restare e non andare. Se c'è stato qualcuno lo ringrazio, mi ha fatto venire a braccia più forti di Armstrong. Quanti sui beat ci fanno un complesso, mi ci sono innamorato, facciamo l'amore mica sesso. E sta città che ne capisce, cresce di cemento, parla di soldi e non sa cambiare argomento. A un ritmo lento all'affanno, io dopo un respiro veloce arriverò più in alto. Arriverò più in alto con il rap, con i pugni, con la red. Arriverò più in alto con le parole, con gli schemi, con i fed. Arriverò più in alto, arriverò più in alto con ciò che c'è. Arriverò più in alto, più in alto, più in alto. Io ci credo su 90 bpm, neanche Lupin avrà i miei testi che conservo come gemme. E come ti vesti, no che non serve, perché una stella brilla ma con indosso niente. Pose la sua gente, fiaba che racconta come sono veramente. Tu tieniti la mente, ci vuole forza finché non si scorda. Non cade la mia luna anche se ce l'ho storta. La strada è faticosa ma non cedo, è più dura dei sassi lanciati addosso a San Pietro. Dietro non guardare, pensa che stai facendo qualcosa di valore che l'oro non può comprare. Col tempo si capisce perché si sta insieme, si sa che non è solo un semplice volersi bene. Con la musica, con lei o con loro, quindi punto in alto ma non sono da solo. Sai che sono sempre lo stesso, uguale. Quello che beve, quello che nelle foto viene male, quello che ama questo micro, quello che punta in alto e non punta il dito. Arriverò più in alto con il rap, con i pugni, con la red. Arriverò più in alto con le parole, con gli schemi, con i fed. Arriverò più in alto, arriverò più in alto con ciò che c'è. Arriverò più in alto, più in alto, più in alto. Red, FSH, posa e la sua gente. Sì, più in alto.